Allora, signori, come ho già accennato nel corso precedente, ma in realtà voi dovreste averlo ricevuto tramite mail attraverso il gruppo, adesso di volta in volta con il microfonino vado a registrare le lezioni, come faceva Giovanni, e le andrò a mettere verso metà settimana su internet. La lezione della scorsa settimana la potete trovare a questo indirizzo, che in realtà chi l'ha già ricevuto sul gruppo non deve starlo a riscrivere. Per chi non l'ha ricevuto, attenzione alle maiuscole e minuscole, perché è importante, quindi ci sono solo queste due maiuscole, la C e la A, tutto il resto è minuscolo. E poi l'indirizzo iniziale non ha il www, è proprio così, is.gd/ la data, anno, mese, giorno e corso avanzato. In realtà, per voi che state seguendo con me questo corso di Access, questa nomenclatura non dovrebbe stupirvi particolarmente, perché poi è la stessa che utilizzo anche con Access. Ora, di settimana in settimana, sostanzialmente, andrò a mettere su internet le lezioni, così vi potrete andare a riscoltare quello che c'è, quello che è stato detto. Questa sera, tra l'altro, sono completamente senza voce, quindi non mi fate urlare. Allora, nel corso della lezione precedente ho chiesto se c'erano tutti per la prossima settimana, mi hanno risposto di sì, per cui la prossima settimana io comunque farò lezione. Perché tanto comunque devo venire, cioè comunque a calendario la lezione della prossima settimana c'era. Di là mi vengono quasi 100 persone, per cui mentre sono qua continuo a fare lezione anche al secondo corso. Comunque, insomma, a metà della prossima settimana ancora poi avrete la lezione su, come si suol dire, su podcast, che fa tanto figo. Vabbè. Provate a creare in maniera automatica che quando mi creo un campo nuovo, in automatico mi vada a fare riferimento a una casella sempre a quel collegamento che ho fatto. Non ci riesco. Magari poi quello. Provo a mandarlo sul gruppo. Così vediamo. Sinceramente io devo essere sincero, i collegamenti ipertestuali non li ho usati tantissimo, li uso solo in un database dove devo andare. Perché se vado a scrivergli sopra, sulla casella, il collegamento identico, come l'ho copiato nella casella etichetta che mi dice. Etichetta o predefinito? Valore predefinito? Valore predefinito. Ok. Valore predefinito. No, allora probabilmente semplicemente ci devi poi entrare dentro e cambiare nuovamente casella. Perché sennò lui non te lo vede come collegamento ipertestuale. Però ti dico, mandalo sul gruppo, lo vediamo un attimino, lo provo anch'io, perché ripeto, li uso soltanto in un caso e per fare dei riferimenti con ipertestuali a dei file. Sì, perché a me esatto. Fare un riferimento che sopra, che apro. Sì. Allora, signori, la lezione scorsa, così riprendiamo poi l'esercizio che c'era da fare, sostanzialmente siamo andati a rivedere le relazioni 1-1, 1-molti e avevamo iniziato ad impostare la relazione 1-molti, quindi con due tabelle. In particolare avevamo detto che quando io ho le due tabelle bollette e fornitori, bollette e fornitori, avevamo detto che per ogni fornitore ci possono essere più bollette e di conseguenza la fornitori era madre di bollette. Se avete seguito il discorso come l'abbiamo sviluppato la lezione scorsa, abbiamo visto che quando io vado a inserire le due tabelle, non devo andare a collegare la chiave primaria della madre con la chiave primaria della figlia, perché quello, abbiamo detto la lezione scorsa, va a creare un collegamento uno ad uno e non è quello che io voglio. Allora, se non dai il simbolo, in realtà vuol dire che comunque c'è qualcosa che non funziona. O non è stata impostata la chiave primaria, oppure non si sta trascinando la chiave primaria. Ma vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Allora, io devo prendere proprio la chiave primaria della madre, che è quella scritta in grassetto e con la chiavetta, e la devo trascinare nel campo ponte della figlia. Il campo ponte, che cos'è? È un campo che ha le stesse identiche caratteristiche della chiave primaria nella madre. L'unica differenza tra la chiave primaria ed il campo ponte è che, mentre la chiave primaria è univoca, il campo ponte si può, e anzi molto spesso lo fa, si ripete più volte. D'accordo? D'accordo? E infatti, se voi avete creato delle maschere con delle sottomaschere, ci avete provato a casa a creare maschere sotto maschera? Avete visto che non è niente di particolare, la volta scorsa andava un po' veloce, ma perché effettivamente non era nulla di più di quello che avevamo fatto qualche settimana dietro con la maschera su una singola tabella. A fare cosa? Le maschere? Vabbè, allora proviamo a fare. Perché non sei riuscito a fare la maschera con la sette maschera? Perché non c'è la relazione 1 a molti. Eccolo lì. È chiaro che se le due tabelle non sono relazionate correttamente tra di loro, lui non va a fare la maschera con la sotto maschera, perché non sa cosa fare. Le mette, probabilmente tu ce le avrai tutte quante su un'unica maschera. Hai preso i campi dell'una e i campi dell'altra e ti sono venuti tutti fuori su un'unica maschera. No, in realtà volevo fare un'altra cosa, cioè aggiornare manuali dati avendo però le due tabelle visibili. Mm-hmm. Sì, sì. Allora, proprio velocissimamente riproviamo a rivedere come si crea la maschera con la sottomaschera. Chiaramente, a patto che la relazione sia fatta come uno a molti, quindi abbiamo detto vado su creazione guidata, in questa finestrella che abbiamo già visto un sacco di volte vado a recuperare i dati della tabella madre, quindi di contratto, regione e tipo di fornitura, e in quest'altra tabella, bollette, vado a prendere i dati delle bollette. Non metto l'ID bolletta, perché tanto l'ID bolletta è un contatore, per cui lui se lo auto-incrementa per i fatti suoi e chi si è visto, si è visto. Vado avanti, ecco che lui, nel momento in cui la relazione è fatta correttamente, mi fa automaticamente vedere maschera e sottomaschera. Vado ancora avanti, scelgo una tipologia della sottomaschera, scelgo uno schema, un layout, eventualmente gli cambio i nomi e schiaccio fine. Ecco che in questa maniera lui mi compone la maschera con la sottomaschera. La cosa particolare, e qua vediamo bene il campo ponte, siccome questa è una relazione 1 a molti, ID codice contratto qua è ripetuto tante volte. Mentre nella madre rappresenta la chiave primaria, nella figlia viene ripetuto tante volte, tante quante sono le bollette che quel fornitore mi ha emesso. E se io vado ad aggiungergli una terza bolletta, in data 4/4/2004, vedete che lui riproduce il codice chiave primaria nel campo ponte. Ho fatto identici passaggi a casa, master, upgrade, relazione, miseria, mi trattavo sempre, non mi viene da cercare su quello dati, i dati che avevo messo nella tabella figlia bollette non me li riporta nella maschera. Come io dico sempre tutti gli anni, chi ha fatto i corsi con me forse è anche annoiato da questa affermazione. Il bello del computer è che primo è molto logico, e questo l'ho già detto nel corso precedente, e poi funziona per tutti uguale. Cioè non è come la legge, che c'è qualcuno che si fa le leggi per conto suo e tutti gli altri che poi spallano merda per una vita. Il computer no, è uguale sempre per tutti. Quindi mi permetto di dissentire sull'affermazione "ho fatto tutto come hai fatto tu". Ecco, c'è solo il presupposto che probabilmente, perché anche il ragazzo magari pensa di aver fatto tutto. Facciamo così, tagliamo la testa alla zebra, mandi nel gruppo il file e così lo proviamo a vedere. Diciamo che 9 su 10 ci possiamo scommettere una birra che proprio tutti i passaggi non ci sono. E infatti, mandalo un attimino e lo vediamo. Ok, se voi fate i passaggi nell'esatta sequenza in cui l'abbiamo fatto la volta scorsa, il risultato è questo. Peraltro, signori, al di là dei passaggi, mica passaggi, quello che mi interessa è che sia chiaro il procedimento. Quindi nella scorsa lezione abbiamo cercato di evidenziare un pochino il procedimento che ci sta alla base di tutti questi ragionamenti. Il procedimento è, nel momento in cui io ho un nuovo problema, inizio a buttare giù su un foglio di carta tutti i vari campi. Li divido in gruppi, dopodiché ciascuno di questo gruppo rappresenta una tabella. Vado a vedere le chiavi primarie di queste tabelle, di ciascuna di queste tabelle, e faccio le relazioni, quindi uno a uno, uno a molti, molti a molti, eccetera, eccetera. Il passaggio successivo è quello di andare a riverificare per l'ennesima volta se ci sono delle ridondanze. E questo, ripeto, signori, è un passaggio importantissimo, anche se non si fa. La lezione scorsa, ad esempio, ci eravamo resi conto che la partita IVA del fornitore probabilmente poteva essere un campo che probabilmente si sarebbe potuto ripresentare nel caso in cui il fornitore diventasse, oltre che fornitore di un servizio, anche il fornitore di un altro, d'accordo? Però su tutte queste variabili qua dovete cercare di ragionarvi prima, non poi quando capitano, perché poi quando capitano iniziano a diventare problematiche, poi, perché è tutto aggiustabile. Però diciamo che meno adito si dà a dei problemi, meno se ne incontrano in futuro. E più il database diventa scalabile, perché poi la cosa importante è anche quella, l'esigenza che oggi parte con un 4-5 campettini, domani sicuramente arriveranno a diventare 200-300, perché poi l'appetito viene mangiando. Ah, ma io se ci metto il codice, il contratto, l'importo, perché non gli metto anche, che ne so, l'indirizzo del fornitore, perché poi gli voglio mandare, che ne so, il fax, allora anche il fax. E allora magari poi, che ne so, se sono all'interno di un'azienda, perché non ci metto anche la filiale alle quali fa riferimento con tutti i dati delle filiali? E se poi magari, perché non ci metto anche i cellulari? E se ho il fornitore del cellulare, perché non ci metto anche i telefoni degli utenti che utilizzano quei cellulari? E quindi poi le esigenze si moltiplicano. Allora, se un database è fatto bene fin dall'inizio, regge. Se un database è fatto male, inizio a fare tacconi su tacconi e questo dopo un po' esplode e si gettano le armi. Però a quel punto tanto vale usare Excel, va bene lo stesso. Ok. Allora, la lezione scorsa abbiamo visto che poi, per quanto riguarda i report, il meccanismo sostanzialmente è medesimo. Quindi non lo so far vedere, mi auguro che a casa voi ci abbiate provato e avrete notato che in realtà creare una maschera con sottomaschera anziché un report è la stessa identica cosa. Ci avete provato a casa? Ok. Questa sera volevo andare a vedere l'esportazione su Excel. A Excel. Sì. Ho sempre dei problemi. Ma perché non trova il pulsante o perché? Perché mi sposta tutte le cose insieme, sì, sì, sì. Non riesco a girare. Allora, per quello. Con la manina si sposta. Allora, per quello. Sì, perché all'inizio anch'io c'ho un po' trafficato. Allora, devi andare su. Clic destro, layout, rimuovi. Provi quello, vedrà che funziona. A quel punto, nel momento in cui lei seleziona un solo oggetto, quell'oggetto dovrebbe essere abbastanza indipendente dagli altri. Se ancora non funziona, come in questo caso, era il layout. Sì, perché era la combinazione tra layout e griglia. Adesso non mi ricordo esattamente in che. Eccolo qua, rimuovi. Quindi layout rimuovi. Non sempre lo fa. No, no, è vero, è vero. E lo trovo anch'io abbastanza ostica questa cosa qua. Andava così bene. Lo so, però. Allora, signori, ripeto, quello che volevo fare questa sera è la esportazione su Excel. Cioè, una delle. Come dire, obiezioni che mi fanno più spesso i colleghi è ma Access è difficile, tra le righe non lo so usare, preferisco Excel, tra le righe, come facciamo? Allora, la mia risposta è sempre, vabbè, ma che problema c'è? Da Access tu puoi esportare su Excel e puoi importare da Excel. E di solito la faccia attonita del collega è questa. Allora, stasera vedremo come da una tabella di Access si possa passare semplicemente a una tabella di Excel. Come si fa? Semplicemente nel momento in cui io ho la mia tabellina, quindi l'elenco delle tabelle, clic destro su una delle tabelle, clic su esporta, e qui ci aspetta anche una piacevole sorpresa, o meglio, per chi magari come me è appassionato sia di internet che di database, che di. Perché in realtà io una tabella la posso esportare, vedete che la prima delle voci che mi dice è Excel. Ma in realtà in una moltitudine di altri formati. Tra cui ad esempio, io mi ricordo quando ero ragazzino e mia mamma lavorava in una grossa azienda, addirittura nel formato DBase, che non so se qualcuno ci ha lavorato ai tempi che furono, vi parlo di 20 anni fa, il DBase c'era già 20 anni fa. Quindi, io prendo una tabellina, ci faccio clic destro sopra, gli dico esporta, e poi ho solo da fare una scelta. Tra i formati sicuramente più interessanti ed accattivanti c'è l'Excel, quindi eccolo qua come esportare una tabella in Excel, ma anche da non sottovalutare per nessun motivo il file di testo. Perché vi dico da non sottovalutare per nessun motivo? Perché mentre Excel è un formato proprietario, perché è della Microsoft, e allora non proprio tutti su internet o anche all'interno della stessa azienda riescono a leggere i file di Excel. È un formato abbastanza ormai diffuso, eh? Però in alcuni casi il formato Excel potrebbe anche non essere leggibile da proprio tutti. Se non ha l'Excel magari l'ultima versione o proprio non ha l'Excel, no. È un foglio di carta. Esatto. Ma io mi ricordo ad esempio quando lavoravo prima nell'altra azienda, che è una grossa società del torinese, e lì c'era un programma per il call center dove gli si passavano i nominativi delle persone con tutta una serie di dati che non leggeva il formato Excel. Per cui che cosa si faceva? Si pigliava il file in access e lo si esportava in file di testo. E questo ogni mattina si andava a recuperare il file di testo, si faceva le sue elaborazioni e a quel punto ai vari operatori del call center faceva partire le telefonate. Quindi file Excel da una parte, dall'altra i file di testo. Il file di testo è senza dubbio un formato molto più semplice dell'Excel perché non permette di cambiare i bordini, il testino, tutte queste belle meningole di Excel che personalmente odio abbastanza, ma che agli utenti piacciono tanto. Ma mi permette di essere interoperabile, cioè io lo posso utilizzare il formato di testo con qualsiasi programma computer. Cioè qualsiasi computer, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato, indipendentemente dal programma, Linux, Mac, Windows, chi più ne ha più ne mette, riesce a leggere il file di testo. Il file di testo generato in questo caso, chiaramente la Microsoft ci piglia tutti per cretini, per cui non è che scrive la sigla come dovrebbe essere scritta, ma il file di testo generato in questo caso si chiama CSV. E se voi, qualsiasi persona vi parlerà, vi dirà esportamelo in CSV, non in file di testo. E CSV che cos'è? Effettivamente è un file di testo, file di testo, e quindi lo ripeto per l'ennesima volta, universale, tutti i sistemi leggono i file di testo, e ha la caratteristica che i campi vengono divisi da un punto e virgola. Quindi il mio file di testo, se io lo andrò a vedere, sarà qualcosa del tipo nome, punto e virgola, cognome, punto e virgola, indirizzo, a capo, Vittorio, punto e virgola, Zuccala, punto e virgola, e così via. Quindi non ci sarà una differenza per colonna, ma la colonna è identificata da un punto e virgola, che per l'occhio umano è meno leggibile, oggettivamente, che non vedere tutto bello incolonnato, ma per un computer è più facile da interpretare. Ah, CSV, che cosa vuol dire? In realtà il punto e virgola lo utilizziamo in Europa, perché gli americani usano la virgola. CSV vuol dire comma, che è appunto la virgola, separated, sì, value, quindi comma separated value, cioè valori separati da una virgola, che poi in italiano, cioè comunque in Europa in generale, è diventato il punto e virgola, perché per noi la virgola è il separatore dei numeri decimali, Per cui mettere una virgola vuol dire che ci andava a fregare tutte le volte che avevamo dei numeri decimali. Allora, facciamo il caso semplice, Excel. In Excel non statevi a scrivere niente perché, secondo me, a questo punto del corso è abbastanza banale quello che stiamo facendo. Mi dice dove devo andare a salvare il mio file. Se non lo voglio andare a salvare qua, sfoglio. Fino a qua ci siamo tutti, no? È il salvataggio di un file. Gli vado a dire dove voglio il mio filetto e ok. Dopodiché qua posso di nuovo nuovamente scegliere anche il formato dell'Excel. Ecco, questa è un'altra cosa invece importante, scrivetevela. Potete anche scegliere il formato dell'Excel. Per chi ha un Excel, o ha un collega magari con un Excel con versione vecchia, in questa fase gli dici ok, te lo salvo con un Excel vecchia versione. Così anche il collega che non ha la versione ultima dell'Excel lo può leggere. E gli date ok. Ok? A questo punto lui vi dice che l'esportazione di tabelle è terminata. Okay. Se mi vado a vedere la cartella documenti, con calma, ora vorrei capire perché. Ok. Se vedere la cartella documenti, ci sarà anche il file bollette, eccolo qua, lo vedete? E se mi vado ad aprire il file bollette, ci saranno le bollette. È comodo questo computer. Oh no, è veramente sono contentissimo dell'acquisto perché lo si mette nello zainetto. Per c***o patisce. No, c'è da dire che anche io non lo risparmio, perché gli ho caricato dentro il mondo. Ma è un computer o un netbook? Sì, poi ripeto, io non lo risparmio perché, come potete vedere anche dal numero di icone che c'è qua sopra, c'è veramente di tutto, però... Ok. Ecco, vedete che ci sono esattamente le bollette come io le avevo sulla tabella bollette in formato Excel. Per cui a quel collega particolarmente rompiscatole che non riuscite a fargli capire che semplicemente è lui che non sa usare Access, se proprio vi strapazza per darvi i dati in Excel, voi ve li fate in Access e poi esportate la tabella. A questo punto uno però mi potrebbe dire, vabbè, ma il codice contratto in realtà io non so se corrisponde, perché il codice contratto ce l'ho nella tabella fornitore, è vero? Allora, innanzitutto, se io voglio fare anche l'esportazione di fornitori, quindi se io voglio tutti i dati di una tabella con tutti i dati dell'altra tabella, tutti insieme, che cosa devo fare secondo voi? Una query. D'accordo? Quindi se voglio i dati di più tabelle collegate fra di loro insieme, devo fare una query. E così introduciamo anche le query. Le query le avevamo viste, le query per una tabella? No. Mai viste? Tanto. Sì, non abbiamo viste. Abbiamo solo visto a livello teorico che cosa significavano, no? La query. Va bene. Vabbè, allora, Per il momento prendetele così come vengono, poi adesso le spieghiamo meglio, vi voglio solo far vedere l'esportazione. Quindi creazione di query. Quindi io creo una query, ripeto, per il momento prendetela così come viene, e fate l'esportazione della query. Si esporta la query. Sulle maschere non si può. Sulle maschere no. O esporto le tabelle o esporto le query. Ma perché, sempre il solito discorso, perché in realtà la maschera non è nient'altro che un'interfaccia più gradevole o di una maschera o di query. O di una tabella o di una query. Ripeto, fra due secondi le vediamo le query, eh? Per il momento prendetele così, guardate solo un secondo, clic destro su query, esporta, Excel, stesso procedimento, gli do l'ok, questa volta su documenti mi troverò anche query 1. Se io la vado ad aprire query 1, sempre con i tempi necessari. Se vado a aprire query 1, ok, vedete che vado a vedere i dati del fornitore e i dati delle bollette. Tutto in un'unica tabella. D'accordo, signori? Se io intervengo su quello, automaticamente memorizzo. Questa è un'esportazione. Sì. È chiaro per tutti, signori? Ma a questo punto l'utilizzatore Access dovrebbe sentire un brivido di freddo che scorre per tutta la colonna vertebrale. Perché? Perché? Cos'è che vedete in questa tabella qua? Perché i numeri sulla sinistra, la prima colonna, sono andiamo a ruota libera. No. La ridondanza. Vedo proprio quel fenomeno che originariamente volevo eliminare. Cioè vado a vedere una bella ridondanza di dati. I dati del fornitore, ora questo qua è un caso tra l'altro estremamente semplicistico, perché provate a immaginare che il fornitore poi abbia vicino l'indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax, l'email, quindi vado a vedere tutti i dati del fornitore ripetute tante quante sono le bollette. Che è il fenomeno che originariamente volevamo eliminare. È vero, signori? Lo vedete tutti questo meccanismo? Ed è esattamente che l'utilizzatore, il fenomeno che l'utilizzatore di Excel non avrebbe fatto. Perché nel momento in cui l'utilizzatore di Excel si rende conto che i dati li ripete tante volte, che fa? Delle tabelle fa che non metterle. Ah, li scrivo in un altro foglio. Sì, e poi come li riconcili? In qualche modo falso, oppure proprio la cosa peggiore, l'utilizzatore di Excel che fa, perché poi io queste cose le vedo tutti i giorni in ufficio, la cosa più bella, invece di mettere il codice, che è la cosa più, che, alla quale l'utilizzatore di Access penserebbe subito, l'utilizzatore di Excel no, mette il nome, perché poi giustamente, no, il codice umano dice niente. Io leggo il codice 1234 contratto, sì, magari quei contratti che, sui quali paghi tante bollette te le ricordi, ma gli altri non te li ricordi. Allora l'Excel che fa? Mette il nome. Che è la cosa proprio peggiore. Perché poi non riusciamo a riconciliarle. Io cioè, mi ricordo almeno 6 anni fa. Come fa a mettere un nome? No, l'utilizzatore di Excel quello che fa è questo. Perché dice giustamente copio troppa roba e linea, cioè, mette semplicemente questo. Se è illuminato mette anche la fornitura, ma deve essere già illuminato. Se vede che comunque lo sta ripetendo troppe volte, dice vabbè, tanto l'Enel più che il gas non mi dà, la tele con più che il telefono non mi dà, tac, tolgo anche questo, eccola qua. E vedi che la ridondanza dei dati l'ho bella che eliminata. È già, bravo te, ma mi ha eliminato anche tutte le informazioni in più. D'accordo, signori? Quindi, ripeto, Excel, secondo me, è un programma ottimo. Io l'ho usato per tantissimo e in tantissime occasioni. Ha però i suoi limiti. Cioè, non è fatto, secondo me, per la gestione dei dati. Per la gestione dei dati bisogna usare programmi come Access. Perché mi permettono di ampliare le informazioni in maniera anche molto granulare. Sì. Grafici per i calcoli, poi ripeto, nel corso di questo corso andremo a vedere anche le tabelle pivot, che senza dubbio sono uno strumento molto potente di Excel, però per la gestione dei dati non vanno granché bene. Ok signori, allora apriamo. Se io do questa tabella collaboratore e fa delle modifiche di sopra, poi come faccio a metterle sulla faccia? In realtà le modifiche non vanno fatte sull'Excel. Ti scrive della roba che io devo avere. No, le modifiche non vanno fatte sull'Excel. La reimportazione su Access si può fare, però è veramente laboriosa. Si può fare. Secondo me però il gioco non ne vale la candela, cioè se io voglio dare da fare delle modifiche a qualcuno, o gli do direttamente il file di Access, con delle maschere, assolutamente. Oppure, se proprio questo non ne vuoi sapere di Access, o semplicemente magari è da un'altra parte, non è, gli si dà soltanto i campi della tabella, non di più tabelle contemporaneamente, perché sennò poi la riconciliazione di è qualcosa di abnorme. Ok, allora signori, apriamo quindi questo nuovo grosso capitolo che sono le query. Ora, ricapitolando un pochino quello che abbiamo fatto in questo corso, dall'inizio ad oggi, la linea che sto cercando di seguire è la seguente. All'inizio, come avete potuto vedere, il corso era prettamente teorico. Ho introdotto una serie di informazioni, peraltro la raffica una dietro l'altra, dove vi facevo una sorta di panoramica generale dei database e di Access in particolare. Successivamente abbiamo iniziato a vedere le tabelle, abbiamo iniziato a vedere le relazioni a livello pratico, le maschere e i report. A questo punto andiamo a vedere le query. Con le query praticamente c'è l'ultimo dei passaggi delle applicazioni pratiche. Perché una volta che vediamo anche le query nella pratica, possiamo passare a qualcosa di più pratico. Quindi ad un problema che magari vediamo insieme all'inizio, che ognuno di voi proverà poi a casa autonomamente a sviluppare. Chiaro che da quel problema lì verranno fuori tutta una serie di piccoli sottoproblemini che andremo a risolvere di volta in volta. E quindi entreremo poi nei dettagli dei meccanismi. D'accordo? Allora, le query sono sicuramente uno strumento fondamentale. Come si creano? Si va sul scheda Crea, alla voce struttura query. Ora, mentre le maschere e i report io ve li facevo creare in autocomposizione, le query invece vi dico createle con la struttura. che peraltro, se ci fate caso, è lo stesso metodo con il quale vi ho fatto creare le tabelle. Cioè, sostanzialmente, tutte le volte che si tabelle e query, fatelo con la struttura. Le maschere report, non che non siano serie, per carità, però comunque sono rimodellabili abbastanza a piacere. Ma soprattutto se sbaglio qualcosa, la cancello e la rifaccio, cioè senza grossi problemi. Struttura. Allora, crea e poi clic su struttura query. Ecco, prima di farvi vedere la query, scusatemi, proprio velocissimamente, volevo farvi vedere il file CSV, perché prima me lo sono dimenticato di farvi vedere. Il meccanismo è sempre lo stesso, quindi clic destro o sulla maschera, o sulla tabella o sulla query, poi si va su esporta ed infine su file di testo. A questo punto lui vi chiede dove volete salvarlo, l'unico è di chiamarlo come .csv, questo perché in questa maniera viene riconosciuto in automatico anche da Excel. Quindi quando esportate il file di testo, abbiate l'accortezza di cambiargli l'estensione in .csv. E gli do l'ok. Dopodiché andate avanti, avanti, avanti, perché lui le opzioni di default che vi dà sono quelle migliori. Vedete che vi fa proprio vedere che differenzia i campi con dei punti e virgola. Punto e virgola. Okay. A questo punto quello che vi produce è un file, vedete, .csv, che è un file sempre leggibile con Excel. Lo notate? È leggermente diversa, perché vi dice che è Excel, ma non è proprio Excel. Tutto è vero che il file CSV, come vi dicevo prima, può essere tranquillamente aperto con Excel. Ma in più ha la caratteristica che essendo un file di testo, io adesso lo vado ad aprire con Excel, sempre con calma, sì. Vabbè, nel frattempo che lui lo apre con Excel, vi faccio vedere, ok. Vedete che lo apre di nuovo con Excel? Ma se io lo apro con un editor di testo, lo vado a vedere proprio come un file di testo. Nelle vecchie versioni, adesso non so in questo, nelle vecchie versioni quando si aprivano i file di testo... Sì, ma se tu gli metti le opzioni di default, lui te lo serve già in formato compatibile con Excel. Quindi, no, con questa. Ok, signori? Va bene. Ritorniamo e rituffiamoci sulla struttura della query. Quindi, crea struttura query. Mi appare una finestrella, che in realtà noi abbiamo già visto questa finestrella. Quando è che abbiamo già visto questa finestrella? Quindi facevi sì con la testa, ma era per dire. Se lo dici tu, l'abbiamo già vista. Ah. Attenta. Sì. Le relazioni e questa tabella semplicemente mi chiede di inserire le tabelle o le query che vogliamo interrogare. Sì, perché attenzione signori, io posso fare una query che interroga una query. Una query da una query. E la cosa non dovrebbe stupirmi, perché nell'esempio che facemmo, forse la prima lezione, delle guide telefoniche, ecco, ormai non ci sono più, ma fino a qualche anno fa arrivavano a casa, io avrò il mio calderone di informazioni, che sono tutti gli utenti di tutta Italia, con tutte, eccetera, eccetera, eccetera, avrò una query che si chiama e che fa questa query? Mi va ad acchiappare il campo città e mi tira fuori soltanto Torino. Poi, se vi ricordate, c'erano due guide telefoniche, per quelli di Torino e prima cintura e per quelli di seconda cintura, eccetera, eccetera. Quindi ci sarà poi una query che si basa sulla query Torino, che sarà prima cintura e, adesso non mi ricordo come venisse chiamata, diciamo seconda cintura. Quello che è. D'accordo? Chiaramente io la query prima cintura e seconda cintura non è che vado a rifare una query sul grosso calderone, ma vado a fare un'interrogazione su già un set di dati che è più circoscritto. È chiaro per tutti? Perfetto. Quindi io qua, vedete che posso andare a mostrare o delle tabelle o che query. Quindi fare una query di una query. O entrambe, se ne fa vedere entrambe. Comunque, in prima battuta, signori, facciamo le cose semplici e lavoriamo sulle tabelle. Tanto poi saranno ragionamenti che verranno da soli. Avete visto con le maschere, no? Fare una maschera su una tabella o su due non cambia granché il ragionamento. E infatti io qua vado a fare una query su una singola. Ma avete visto prima che farlo su due non cambia di nulla il ragionamento. Ah no, dato che ci siamo, facciamolo su tutte e due, tanto. Quindi piglio bollette e piglio fornitori. Ora, se a monte avevo fatto la relazione in maniera corretta, lui me la ripropone in questa sede. A questo punto che faccio? Piglio, al solito vuol dire che ci clicco sopra, eh? Piglio i vari campi che mi interessano e li trascino nella finestra sottostante. Quindi se ve le volete disegnare quella struttura della query, avrete la 1, 2, 3... quante sono lì sopra e sotto avete campo tabella mostra criteri ed oppure Andore sopra voi. Ordinamento, mostra, criteri ed oppure. Quindi io cosa devo fare? Devo andare ad acchiappare i campi uno per uno o più per volta e li trascino dalla tabella alla seconda metà della struttura. Allora, a questo punto uno mi potrebbe dire, vabbè, ma... E io gli posso rispondere a quelli che ti interessano. E giustamente uno mi chiede, ma mi interessano in base a che cosa? Di volta in volta quello che vai a fare. Quindi se in questa prima battuta mi interessa semplicemente, che ne so, l'elenco delle bollette, vado a prendere solo i dati delle bollette. Se mi interessa l'elenco dei fornitori, vado a prendere l'elenco dei fornitori. È chiaro che su un database relativamente piccolo come questo non è che si possono fare grandi ragionamenti, ma voi provate a pensare ad esempio alla gestione di un magazzino con tutti i dati dei fornitori, tutti i dati del cliente, tutti i dati dei prodotti, tutti i dati, che ne so, dei dipendenti che ci mettono mano. E beh, lì, a seconda di quello che io voglio fare, che ne so, se voglio vedere la giacenza rimanente, farò un tipo di query diverso che se non voglio fare un catalogo prodotti. Ma sempre sulla stessa base dati vado a lavorare. Allora, io qua, dato che ripeto, i campi sono pochi, li vado ad acchiappare tutti e vedete che proprio li prendo, quindi li seleziono, e li trascino qua dentro. Quando lascio, lui si va a riempire quelle caselline in automatico. Lo faccio rivedere. Li seleziono. Ovviamente, signori, non sto a dirvi che per selezionare clicco sul primo, vado sull'ultimo e faccio shift più click. E li trascino in basso. E lui si va a riempire automaticamente il campo e la tabella. Dopodiché, se mi interessano, vado a prendere anche gli altri campi e li trascino più in là. D'accordo? Ora, se i di bolletta la voglio spostare subito dopo i di contatto, seleziono la colonna, ok, e la trasporto per esempio di qua. Mi seguite? Dico cose abbastanza chiare, se non mi fermate. Ok. Quindi vedete che in prima battuta una query si fa in questa maniera qua. Quindi si recuperano i vari campi e li inserisco lì dentro. E allora vedo già una prima cosa interessante. E qual è la prima cosa interessante? L'utilizzatore di Excel, scusatemi se continuo a battere su questo punto, ripeto, io lo uso tantissimo Excel, quindi non è che voglia fare il superiore del turno, ma l'utilizzatore di Excel va in crisi quando la sequenza delle colonne che si aspetta. Perché l'utilizzatore di Excel vuole magari prima tutti i dati del fornitore e poi tutti i dati delle bollette. Comunque ha una sequenza, peraltro anche logica per carità, ma deve essere rigorosamente rispettata. Quindi quando l'utilizzatore di Excel inizia ad impostare un foglio di Excel, i dati devono essere perfettamente rispettati. Se si infila un campo in più, magari va ad aggiungere una colonna per rispettare questa sequenza logica dei dati. Mi seguite tutti in questo ragionamento? L'utilizzatore di Access no. In una tabella, e questa è una cosa che gli utenti all'inizio dicono, ma perché, ma come, ma fammi capire. I dati io li posso mettere come mi vengono, mi vengono. Ora, anche la tabella, la chiave primaria, che di solito io metto sempre per prima, ma per una mia deformazione personale, io la chiave primaria la posso mettere quando voglio. Invece di mettere nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, posso mettere numero di telefono, cognome, indirizzo, nome. Perché nella tabella i dati li posso mettere come mi vengono. Perché? Perché nelle query, che sono poi quelle che mi vanno a rappresentare i dati, io questi dati li posso spostare come diavolo voglio. È un concetto banale, ma che, ripeto, è una enorme differenza dall'uso di Excel. Perché in Excel io devo rispettare rigorosamente i campi. In Access io le tabelle le posso mettere con i campi come voglio. Tanto nelle maschere me li posso sistemare, nelle query me li posso sistemare, nei report me li posso sistemare, come vengono, vengono. Va bene. Una volta che io ho creato la mia query, che in realtà in questo momento ne convengo, non fa niente questa query, se non andare a raccogliere i dati, il punto esclamativo rosso con la scritta esegui. Scrivetevi che il punto esclamativo rosso, perché nella versione 2003 non c'è scritto esegui, se non ricordo male. C'è scritto? No, c'è solo il punto esclamativo. E schiaccio il punto esclamativo rosso. Che vuol dire esegui? Che peraltro è un po' quando facevamo le tabelle, perché se vi ricordate entravamo nella struttura e poi la visualizzavamo la tabella. Allora vado su esegui e lui mi fa vedere il risultato della query, che ripeto non fa niente di più se non prendere tutti i dati di una tabella e tutti i dati dell'altra e farmeli visualizzare insieme, che poi è il risultato dell'esportazione che facemmo poc'anzi. Perfetto. Se voglio ritornare nella struttura, che devo fare? Che non l'ho ancora salvata. Sulla squadretta. Una volta che avete eseguito la query, se volete ritornare sulla struttura, dovete schiacciare sulla squadretta. Questa qui. Scrivetevelo, signori, per chi non lo sa. Ve lo dico perché vi capiterà spesso. Faccio la query, non è esattamente quello che volevo, ritorno sulla struttura, la rimodifico. Esatto, cioè. Quindi è un processo che farete spesso e volentieri. E creo la mia query, la lancio. Non è quello che volevo, ritorno sulla struttura, la modifico, la lancio, non è quello che volevo e vado avanti così. Chiaro che poi questo con l'esperienza lo dovrete fare sempre meno volte, ma soprattutto all'inizio. Ora, il campo lo mette lui in automatico. La tabella la mette lui in automatico, l'ordinamento come potete vedere è tutto vuoto. Se io clicco su una delle voci ordinamento, se io clicco per esempio qua sulla ragione sociale, vedete che appare in automatico un menu a tendina che mi dice crescente o decrescente. E anche questa è una di quelle cose che all'utilizzatore di Excel, dice: ah no, i dati man mano che mi arrivano io li devo andare ad inserire nei posti giusti. No, i dati man mano che arrivano io li vado a inserire, poi con una query me li vado a ordinare. E allora io posso scegliere di andare a ordinare per tipo di fornitura, per importo. Ecco, se io volessi andare ad ordinare per importo, devo andare sulla riga ordinamento, sulla colonna, qua. D'accordo? Se io gli dico ordina per importo crescente, quando eseguo la query, lui me li ordina per importo crescente. Se io invece che per importo gli dicessi ordinami per data, quindi in ordine cronologico, lui me li ordina per data. D'accordo? Cosa succede se gli indico ordina su più campi? Dipende dal prioritario, cioè quello più... ordinerà prima per il campo più a sinistra e poi mano a mano su quelli di destra. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho, ad esempio, cognome e nome, ordina per crescente per cognome, ordina crescente per nome, prima mi metterà tutti i bianchi, tutti i rossi e tutti i zuccherà. All'interno di bianchi, rossi e zuccherà mi metterà prima Marco, poi Nicola e poi Vittorio. D'accordo? Chiaro che se inverto i campi, mi ordina prima tutti per nome e poi che non è sbagliato. Dipende sempre da che cosa voglio. Il cellulare, ad esempio, io parlo del mio, ordina tutti per cognome. Prima per cognome e poi per nome. È una scelta. Essendo un dispositivo mobile e quindi associato ad una singola persona, è più facile che la persona si ricordi il nome. Per cui in quel caso lui mette prima in ordine per nome e poi in ordine per cognome. È una scelta. Chiaro per tutti, signori? Quindi ve lo faccio vedere, anche se ripeto, qua penso che non... Praticamente prima mettere tutti il nome Nicola e poi mettere tutti il nome Vittorio. Sì, mette prima tutti Nicola e poi tutti i Vittorio. E all'interno di Nicola andrà a mettere prima bianchi, poi rossi, poi zuccherà. E ripeto, è una scelta. Ecco, vedete che... sociale del fornitore è per data, quindi lui prima mi metterà tutti gli Enel e poi tutti i Telecom, e all'interno di Enel ordina per data e all'interno di Telecom ordina per data. D'accordo? Perfetto. Questa cosa in Excel si può fare con l'ordinamento, ma qual è secondo me il plus? Questa query la posso copiare, incollarne e fare un'altra identica dove cambio soltanto l'ordinamento. Tutte le volte invece che l'utilizzatore di Excel vuole cambiare l'ordinamento, deve andarsi a selezionare tutta la tabella, andare nell'icona ordina e scegliere il tipo di ordinamento. Qua invece lo faccio una volta, eventualmente mi faccio 2, 3, 4 ordinamenti diversi a seconda di quello che vado a fare e poi ce l'ho lì, fatte. Poi di solito quando ordini per una colonna... Ma no, lì poi dipende da quanto sono grossi i fogli. Io lavoro con fogli molto grossi e spesso e volentieri si ordina per 2, 3, 4 colonne. Quindi... Ok. Ora, fino a qua, sicuramente una query è interessante, ma, diciamo così, non è particolarmente utile, perché non fa il suo lavoro. Il lavoro della query è sostanzialmente quello di andare a... Vabbè, lo dicevamo già in realtà qualche tempo addietro. In realtà quello che io posso andare a inserire su Access è senza dubbio molto più di più di quello che posso andare a inserire su un Excel. Esattamente, che dipende da quanto è grosso il file. Cioè su Access tu riesci ad arrivare, se non ricordo male, fino a 6 giga di file. Cioè Access non lavora tanto con numero di record, ma come dimensione del file. Quindi è chiaro che 6 giga di file vuol dire o un'unica tabellona, 800 colonne per 20 milioni di righe, o anche tante piccole colonne, tabelle con 2 colonne e non so quanti milioni di righe. Però ben oltre al milione di righe, cosa che Excel non riesce niente a fare. Perché l'Excel vecchio si fermava a 32.000 righe. Sì, però se già fai un clip, e inizia a patire. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. E comunque anche lì poi vedremo dei meccanismi che possono aiutare. Allora, signori, ripeto, quello che... Quindi fino qua la query non fa azioni in particolare. Ma la query serve per filtrare i dati. Allora, supponiamo che ad esempio io voglia andare a prendere soltanto la bolletta numero 3. O soltanto il numero di contratto 1, 2, 3, 4. Se vedete c'è la riga criteri. Allora, i miei parametri si vanno a mettere nella riga criteri. Quindi i parametri si metteranno nella riga criteri, nella colonna ID bolletta. Uno specifico ID bolletta devo andare nella riga criteri alla colonna ID bolletta e quindi devo andare sostanzialmente a scrivere in questa cella. D'accordo? Mi raccomando, questa cosina qua è importante. Cioè non dire che scrivo l'ID bolletta sotto il numero di telefono, perché sennò mi va a fare una ricerca sul numero di telefono. Ora, se io vado a mettere l'ID bolletta, quindi vado a scrivere 3, e rilancio la query, che succede? Che di tutto l'elenco che c'era precedentemente, lui mi va a prendere soltanto il record della tabella della bolletta numero 3. È chiaro che in questo caso i discorsi iniziano a farsi tutti molto più interessanti. Perché poi questo è il... ci stiamo girando intorno. I database sono belli per due cose fondamentali. Il primo è perché raccolgono informazioni. E su questo, per quanto io aborro Facebook, Facebook è un chiaro esempio. Facebook è un raccoglitore di informazioni. E su questo gira un'economia che è spaventosa. Su tutti i database gira un'economia che è spaventosa. L'altro grosso fenomeno sono le query. Quindi estrapolare dati. Ora, se io voglio, facciamo un altro piccolo esempietto, andare a prendere soltanto la fornitura di gas, vado nella riga criteri alla colonna tipo di fornitura, scrivo gas, lasciate perdere che adesso lui mette le virgolette, poi questo la prossima settimana ci ritorniamo, se voi scrivete gas e poi andate dall'altra parte lui lo fa in automatico, lancio la query e lui mi prende solo le forniture di gas. D'accordo? E qui potresti fare diverse query. Qua chiaramente posso fare diverse query, per esempio, che so, questa magari la potrei chiamare query fornitura gas, poi faccio la query fornitura luce. Poi faccio la query fornitura acqua. Se tu sulla tabella fai una master, quando apri la query, ad esempio il gas, certo. È sempre aggiornato. È sempre aggiornato. D'accordo, signori? Perfetto. Allora, a casa vi chiedo di provare questo tipo di query. Allora, queste query si chiamano query semplici. Queste query, come le abbiamo viste fino adesso, si chiamano query. Vedete che all'inizio del corso, se vi ricordate, avevamo chiamato query di selezione, e selezione l'avete visto perché c'era un gruppo di record, quelli sono diventati di meno, per cui li ho selezionato, semplice. Quindi andate poi a casa a rivedere sugli appunti, erano quelle che sugli appunti avevamo chiamato query di selezione semplice. E ripeto, adesso mettiamo in pratica tutte le cose che ci eravamo raccontati, quindi di selezione perché diminuiscono il set di dati, semplice perché in realtà i parametri che noi stiamo inserendo sono oggettivamente molto semplici, cioè li vado a inserire di volta in volta il singolo parametro. A casa vorrei che vi creaste, se avete già fatto la tabella fornitori bollette, popolatela un minimo, sia quella dei fornitori che quella delle bollette. Chi aveva dei problemini per riprovare a farlo, eventualmente mandi sul gruppo il file, così lo si può rivedere insieme. Cioè, lo scopo del gruppo è proprio quello, cioè io non vorrei proprio sensibilizzarvi su questo discorso. Se non ci riuscite, provate a mandarlo, qualcuno vi risponde. Se non lo fa qualcuno, poi lo faccio io. Però la mia idea originale era proprio quella di creare una sorta di comunità. Quindi provate a popolarvi questo database con un po' di fornitori e un po' di bollette associate ai fornitori e poi provate a fare delle prime query semplici. Quindi la sola fornitura del gas anziché quella della luce, la bolletta numero 3 anziché la bolletta numero 4 e che ne so, per esempio, tutte le bollette con importo pari a 200 euro. Va bene, signori? Sì. Perfetto. E con questo chiudiamo la serata. Quindi, la prossima lezione andremo avanti con le query. In particolar modo andremo a vedere